che il senso, cioè il significato della poesia, se vogliamo del topo, si può identificare o no con il nucleo. Adesso introduciamo, abbiamo parlato, una cosa più importante, di attenzione affettiva, adesso dobbiamo parlare di un nuovo concetto. Questo concetto che ho ideato, diciamo così, lo possiamo sentire, avvertire, riflettendo su questi primi tre versi. L'orizzonte si inclina, in una divaricazione, lo sviluppo narrativo, i giorni sono più lunghi. Guardate come la divaricazione proprio ci fa sentire la misura del viaggio. Attenzione, che la fa sentire in un modo plastico, tangibile, perché non dovete dimenticare che queste poesie, l'ho detto, lo ripeterò sempre, sono come dei quadri, eh? I giorni si allungano da una parte, dall'altra parte l'orizzonte si inclina, viaggio, viaggio. Intorno alla parola viaggio voi sentite, vedete che non c'è nulla. Dopo la parola viaggio si va a capo, non completamente a capo, perché il racconto già ha cominciato con quello che abbiamo detto. Ora, se io dico viaggio, voi sentite che c'è una sorta di aura intorno a questa parola, un'atmosfera. È ben chiaro che tutte le parole hanno un'aura, un'aura in termini alla Benjamin, hanno questa atmosfera, no? Cioè, se io dico tavolo, non ha un'aura. Se io dico fiore, l'aura c'è. Cosa intendo dire usando in questo modo questo concetto, così, insomma, assolutamente approssimativo, di aura? Intendo dire una serie di riferimenti, di immagini, ma nel momento in cui la parola a me gli occhi, ragazzi, emette questi riferimenti, è come se la parola, e qui voglio arrivare, è come se la parola vibrasse, è come se la parola mostrasse una sua vita vibrata. Il concetto che vorrei illustrarvi è quello di vibrazione. Questa poesia, è ovvio che alcune indicazioni o strumenti che noi diamo adesso su Reverdì possono essere utili anche in altre circostanze, ma come vi dico, io detesto l'idea di poter estendere questi concetti al di là del luogo al quale si riferisco. Quindi noi stiamo, il nostro scopo è quello di considerare questa poesia per capire l'atmosfera. Chiuso, punto. Non vedo dubbio che quando io ho detto, sentite, l'horizon s'incline, le jours sont plus longs, voyage. La vibrazione è dovuta al fatto, cioè l'emissione di significati, di connotazioni, di immagini, di suggestioni, è dovuta sia alla posizione della parola voyage, posizione proprio tipografica, no? Sia al contatto con le altre parole, perché voyage viene dopo i giorni più lunghi. Diverso sarebbe se questi giorni più lunghi non ci fossero, ma se io dico i giorni sono più lunghi, dico viaggio, allora io sento che quel viaggio è un viaggio lungo, perché le stagioni sono mutate, le stagioni sono mutate. Quindi la vibrazione è dovuta a tre fatti, è dovuta alla posizione tipografica, al contatto con le parole vicine e ovviamente al significato della parola viaggio con tutte le connotazioni implicite, implicate. Se io dico, in questo momento la ragazza bianca è assiduissima, non mi ricordo il suo nome? Chiara. Chiara, ascolti bene. Se lei dice viaggio, cosa è? Ha un senso di libertà, di euforia. Quasi, però vorrei che dessi una risposta, se così posso, non meccanica. Cioè cerchi di vedere la parola viaggio, di vedere cosa rappresenterebbe nella sua vita. Perché, per esempio, non so, alcune persone vivono per viaggiare, no? Io no, per la cosa sono molto rapprestato, ma ognuno poi ha le sue iatture, insomma, no? Io viaggio male, una volta no, viaggiavo molto e benissimo. Poi col tempo capitano cose, col tempo si diventa più profondi, più brutti, più intelligenti, oppure meno. Io quando viaggio ho un senso di agorafobia, per qualcuno che viaggio male da solo, e la persona con cui viaggio invece è una viaggiatrice spettacolosa, insomma. Ma io così mi trovo bene. Un bel cesso, per esempio. Non so perché un cesso familiare, naturalmente deve essere pulitissimo, ma i rubinetti, la tazza del gabinetto, no? Però ha un gabinetto dell'aeroporto meraviglioso, tedesco, quindi tutto tedesco. L'acqua, i getti d'acqua erano tedeschi, l'aeroporto di Monaco, parlavano tedesco. Non quando mi sono trovato in senso di tale disagio quest'anno viaggiando, sono stato sul Golfo di Finlandia, poi io poi trascinato faccio queste cose, ma con paura, con paura. Ho paura delle grandi distanze, non era affatto così una volta, così interessante, assolutamente, ho viaggiato moltissimo. Però uno va al bagno e sai che al bagno è quello che ti aspetta. Riflettiamoci su questo fatto, che cosa ci aspetta al bagno? No? Non è una grande sorpresa. Io posso andare in un albergo, per esempio, io non so l'albergo, che cosa mi aspetta? Camere, ma un gabinetto? Ci pensate, la pace di un gabinetto, riflettete su questi concetti importanti, la pace del gabinetto, è straordinario, è un concetto insolito, lei lo vede con diffidenza. Ma invece lo comprendo. Lo comprende invece questo, eh? No, una camera d'albergo ti può riservare strane incognite. Io vado in alberghi sempre molto belli, devo dire. Ci sono alberghi in cui non so, infili in un buco una scarpa che te la lucida, allunghi la testa e ti lavori la pelle, insomma, basta che ti muovi un po' di spalle e arriva un massaggio meraviglioso, eccetera. Solo. Però è una sorpresa, è qualcosa di scomodità. Perché è frutta della paura? Aveva ragione. Uno prendeva i fondelli perché aveva paura di viaggiare, insomma, no? C'è gente invece che ci vive, detesta il gabinetto. C'è gente che non andrebbe mai a vivere. Vuole solo viaggi. Una mia amica si trovava nel deserto del Sahara alle 3 del mattino. Oh, ma scherzate. Il deserto del ma nella Libia, Gheddafi, ma cose terribili, il freddo della notte, ma cose spaventose, lei invece adorava questo tipo di cose. Ma la parola viaggio, vedete che ha delle vibrazioni, e allora la vibrazione è cercata. Le parole devono vibrare, non tutte, perché se vibrano tutte non senti più l'effetto, evidentemente. Bisogna che qualcuna vibri, ma direi come un pittore. Se un pittore facesse vibrare ogni angolo del suo quadro, non ci sarebbe più, no? Pensate come è costruita bene un quadro che appunto citiamo spesso, che è Monna Lisa. In fondo di Monna Lisa, quadro mirabile tra i mirabili, intendetemi naturalmente quello che sto per dire, tutto è banale in Monna Lisa. Che cosa c'è di non banale? Tutto, il sorriso. Ma se invece fosse, come dire, effetto da effervescenza, lo sguardo, noi non vedremmo più il sorriso. La scena intorno invece è tutto piatto e tranquillo perché questo dettaglio possa emergere. E qui vediamo che ci sono delle parole che vibrano, questa è una cosa che è tipica di Ravenna. La vibrazione produce un effetto, cioè questa capacità di vicino, dovuta a fatti tipografici, dovuta alla collocazione secondo della parola all'interno del contesto, dovuta al significato della parola viaggio, la vibrazione è seguita dal nuovo concetto nel nostro discorso, nel nostro, no, che è il concetto di evocazione. Cos'è l'evocazione? Sono i pensieri che ti vengono. Qual è la differenza tra la connotazione del linguaggio che vi propongo e l'evocazione? Beh, profondissima, perché la connotazione sono le parole che riguardano il viaggio di per sé, senza che io intervenga. Le evocazioni sono invece le immagini che mi vengono, che appartengono alle mie esperienze del viaggio, no? Ma è indubbio che quando io vedo un voyage, io vedo un accento, avverto, una vibrazione a contatto vero, spazio tipografico, collocazione della parola tra altre parole, tre connotazioni della parola stessa viaggio, di per sé. A quel punto partono le mie evocazioni di viaggi miei personali. E poi che succede? Qual è il terzo concetto che dobbiamo chiamare in causa dopo l'evocazione? Ritorniamo con il viaggio. Voyage. Secondo voi, quando si parla di un cœur saut, ecco, se per esempio Lorenzo legge, legga qua, l'horizon s'incline, legga un po'. Le choses sont plus longues, voyage. Continui. Un cœur saut. Dopo, allora, mi vuol leggere, come lo leggerebbe tranquillamente, lei, dalle giù andando in avanti, nessuno lo interrompe. Le choses sont plus longues, voyage. Vedi che si è fermato, cioè dopo la parola voyage lei si è fermato, mentre dopo le jours sont plus longs lei non si è fermato, proprio perché sentiva che voyage era, come dire, incollato alle jours sont plus longs. Dopo voyage c'è un silenzio, e allora voglio dire che il terzo elemento dopo la vibrazione e l'evocazione fondamentale per l'erudito è il silenzio, e qui occorre tornare ai punti. Che cosa è nel cubismo il silenzio di cui Ravenna serve? È lo spazio tra gli oggetti. Se c'è un violino, poniamo, e c'è un libro, e c'è una pera, la caratteristica dei cubisti è che loro fanno sentire lo spazio che c'è tra il violino, la pera, come consistente. Allora questa poesia è intessuta di silenzio. Ma la vedete, qual è la differenza tra una situazione poetica normale e questa di Verdi? Che non che nelle poesie non manchi il silenzio, ci mancherebbe altro, ma qui il silenzio è sentito, e questa è sentito, e qui è la sottigliezza, in una sua consistenza, in una sua materialità. La sequenza quindi è vibrazione, è chiaro per tutti ragazzi, poi evocazioni, le nostre evocazioni dei nostri viaggi, e poi questo silenzio. Io dico voyage, la parola vibra per la connotazione tipografica, per la connotazione tra parole e per le connotazioni sue, evoco, punto 2, i miei viaggi, la mia idea di viaggio, poi c'è un silenzio. Ecco. Il silenzio è inutile dire quando è importante. Nella musica è tutto, no? Come si sarebbe partito a costruirlo senza dare continuamente al silenzio la debita importanza? Qual è lo scopo del silenzio in questa poesia? C'è un primo scopo che è estetico, evidentemente, ed è banale, insomma, cioè far risaltare le parole. Ma c'è un secondo scopo, che è più sottile, che è quello di creare un senso di segreto, di mistero, se volete, di segreto. Quindi il silenzio obbedisce anche a questa funzione. Abbiamo chiarito dei concetti fondamentali, fondamentali, che ci aiutano a capire Reverdy, e adesso passiamo, almeno per la prima parte, alla poesia Memoir, che troviamo, ah, io non so, io sono un'altra cosa, Memoir. 2.42. 2. Sono capolavori queste poesie, spero che lo comprendiate, insomma. Cioè, proprio. Mi sono anche, vi dico subito questo, mi sono anche in queste poesie dei. Perché qualcuno che registra per caso tra di voi. Mi sono anche poi delle ingenuità. Ascoltatevi bene, questa è una finezza, quella di Dio biondo. Non è da tutti, un Dio biondo. O gli agi di Cristo è biondo. Cristo non è di capire. Capito? Di Cristo è vuoto. Capito? Delle banalità, ma attenzione a me, questa è una cosa sofisticatissima. Ma come, un'opera d'arte ha delle banalità? Eh beh sì, una grande opera d'arte, secondo la mia opinione, a lungo elaborata in una lunga vita, che spero dura ancora po', insomma, comunque più della volta, questa è sempre la mia idea, so che non è così, ma insomma, non deve essere perfetta. Neanche una persona da amare deve essere perfetta. Lei è stata, ma quando lo vorrà, sarà, dovrà essere perfetto? No. Creda bene, sarà, dovrà. Lei è un fidanzato perfetto? No. Ce l'ha, ma non è perfetto. E dice, vabbè, ma è un uomo, uno può tollerare l'imperfezione. È un'opera d'arte, anche l'opera d'arte. E questa è l'idea rivoluzionaria su cui medito da molti anni, molti anni. L'opera d'arte deve conoscere dei suoi buchi neri, delle sue banalità, delle sue cadute in tono, delle sue sottili, segrete, insufficienti volgarità. Le danno una prospettiva, una ricchezza, un qualcosa di sanguinoso. Quando Croce diceva che non tutto Dante è bello, e poi ci sono stati, io mi ricordo, nel periodo post-crociano, che è stato quello della mia generazione, parlare di Croce, mi ricordo il professor Scrivano, che era il professore di italiano che era qui, che avrete conosciuto, che era abbastanza bravo, cioè non troppo matto completamente, parlare di Croce è come parlare di Berlusconi. E allora si diceva, ma è vero, la commedia può essere giudicata tutta in una sua ricchezza di storicità e altre cazzate miliardi, e quindi può avere tutto un suo valore. Ma perché? Ma perché uno non può dire ciò che è bello e ciò che è brutto? Io posso dire, cioè, vediamo che ci sia qui una ragazza, ipotesi, insieme a Roberta, io posso dire quello che è bello in Roberta e quello che è meno bello. O no? È per Dio. E quindi in Dante ci sono cose, aveva ragione Croce, ma è bello che ci siano cose, tra virgolette, anche se queste espressioni brutte in Dante, è bello. Il lavoro intellettuale non è andato perfettamente a segno. Non tutto deve andare perfettamente a segno. Ci sono dei pittori in cui tutto va a segno, ma sono pittori banali, sono pittori che hanno. Io sono colpito per esempio spesso negli impressionisti, che voi hanno molto, naturalmente, ma sono colpito da una certa correità per cui gli va tutto bene, questo non hanno intoppi, non hanno inciampi. Ma un'opera d'arte deve essere fatta di zone buie, zone oscure, di cose. E se uno potesse rimproverare a Johann Sebastian che la passione a un certo momento è troppo melliflua. Quante volte ho sentito la passione di San Matteo, di Bach, quante volte? Forse un milione. Forse un milione. Ma in certi momenti ho una sofferenza profonda per questa musica di Ravi. Forse perché la sento troppo dolce, dolciastra. Il caffè non piace zuccherato, forse sempre allo stesso modo. Uno ha bisogno di meno zucchero, no? Mettiamo che sia un errore, però è un errore, ha reso viva quell'arte. E quindi dov'è che Reverdy sbaglia? Reverdy era un grande poeta, era un modesto pensatore, era un poeta che a volte non ha avuto sufficiente coraggio. Per esempio, quello che ammiro spropositatamente in Picasso è che era un genio, come ce lo sono stati, il suo coraggio assoluto, non volere delle soluzioni dolci. A volte la melodia è troppo dolce e a volte scrive dei versi, ve lo farò vedere, che sono un po' sotto il suo standard, sono da troppo incontro al pubblico, non bisogna andare incontro al pubblico, bisogna schiaffeggiare il lettore, lo spettatore, e saperlo fare. Anche gli studenti bisogna schiaffeggiare quando fa una buona lezione, ed è una cosa che a volte io credo di fare, sempre venga, in modo naturalmente squisito. Guardate questa poesia, è una poesia sulla memoria, grande tema culinariale, per chi di voi conosce l'Apollinaire, chi ha fatto l'Apollinaire con me? Une minute à peine et je suis revenu. De tout ce qui passait, je n'ai rien retenu. Un point. Le ciel grandit. Et au dernier moment, la lanterne qui passe. Les pas que l'on entend, quelqu'un s'arrête entre tout ce qui marche. On laisse aller le monde, et ce qu'il y a dedans, les lumières qui dansent et l'ombre qui s'étend, il n'y a plus d'espace en regardant devant. Une cage, oui, ça fait ça, hein? Une cage où bondit un animal vivant. La poitrine e le bras, questo è un verso apollinariano, credio, più apollinariano di questo. La poitrine e le bras faisaient le même geste. Une femme riait en renversant la tête. Et celui qui venait nous avait confondus. Nous étions tous les trois sans nous connaître. Et nous formions déjà un monde plein d'espoir. L'ultimo verso è banale, è volgare, è un calco apollineriano, gliel'ha scopiazzato da Apollinaire, ma noi va bene così, perché noi vogliamo nell'arte l'umanità, noi che ci intendiamo di arte vogliamo nell'arte l'umanità, sono i mediocri che vogliono solo cose perfette. La poesia si divide in due topoi, ma se la traduciamo naturalmente. Un minuto appena e sono tornato di tutto quello che passava, che era avvenuto, di tutto quello che avveniva, di tutto quello che avveniva. Veramente che era passato, è difficile dirlo, perché non è chi se passé. Di tutto, facciamolo veramente, di tutto quello che passava, non ho trattenuto niente, un punto, il cielo ingrandito, dall'ultimo momento, la lanterna che passa. I passi che si sentono, qualcuno si ferma, fra tutto ciò che va, si lascia andare il mondo verso cambio. Tutto è. Lei guardi, non dovrebbe neppure prendere un tramezzino per trarsi. Con un verso del genere dovrebbe semplicemente si lascia andare il mondo. Pensate alla grandezza di questo verso. Cioè, noi che ci affanniamo a controllare orari, la nostra vita, gli esami, i nostri doveri coniugali, affettivi, fidanzati, padre, madre, si lascia andare. No? Io penso sempre a questo, ma un minuto prima di nascere. Io sono nato e anche voi cercate di nascere. Il mondo andava avanti. Buono. Problema vero. Un minuto dopo che saremo morti, il mondo andrà. Il distributore di benzina sarà ancora al suo posto. Per noi è intollerabile l'idea che non vedremo più il distributore di benzina. Assai meno intollerabile il fatto, per caso che mi riguarda, per esempio, che io per motivi anagrafici non ho potuto vedere, per motivi anagrafici, la liberazione dai fascisti. Non c'è, gli annuncio non c'è. Però ho visto Moro, voi no. Il problema è che ci immaginiamo eterni. C'era un libro di Alchieco, Ferdinando Alchieco, sul desiderio di eternità. E immaginiamo di dover durare. Torniamo qui a questo mondo che si lasciare andare il mondo. Lasciare andare il mondo. Vorrei questo concetto proprio perché siete ragazzi grandi e siete bravi, preparati. Conoscevo un signore che era un dirigente della FIA. Un giorno ero ragazzino, disse a mio padre, che era una persona di grandi responsabilità, eccetera, che lui aveva un modo per lavorare, lui lavorava allora in Jugoslavia. Cioè io le pratiche dell'ufficio le metto nel cassetto. E mio padre, che era uno molto scrupoloso, dice sì, però poi le do le prove al cassetto. No. Si tolgono da solo. Come si tolgono da solo? Sì, quello che è importante viene fuori. Mio padre pensava, ma questo è falso, ma comunque non lo so fuori. Però questo lasciare andare il mondo, lasciare che le cose si facciano, per esempio abbiamo così cura dei nostri affetti, della coltivazione dei nostri affetti, amori, ma perché non lasciamo andare i nostri amori? Che vivano un po' la loro vita, capiti quel che deve capitare. Sentite la grandezza di questo verso, come ci fa evocare cose importanti per noi. Capiti un po'. La corsa dietro a una certa età della vita, non è la vostra fortunatamente, ma vi auguro che sia più tardi possibile. La corsa dietro le analisi cliniche, radiografie, eccetera, eccetera. No? Ma lasciamo un po' andare le cose. Ecco, sentite la poesia che lasciare un po' andare le cose. Andiamo oltre. E quello che c'è dentro, quindi lasciamo andare, si lascia andare il mondo e tutto quello che c'è dentro. Le luci che danzano, l'ombra che si stende, c'è più spazio. Guardando davanti, una gabbia dove salta un animale vivo, il petto e le braccia facevano lo stesso gesto, non si capisce naturalmente. Quatrin è una metafora, sta per cuore, cioè lo spirito e le braccia. faccia facevano lo stesso gesto. Quale gesto? Ma non importa molto, importa che vi sia un accordo tra il dentro e il fuori, tra l'anima e il corpo, per così dire, eh? Una donna ripeta. Adesso sentite come questo, guardate a Ramvertan dove è scritto, lo vedete che è scritto proprio in coda al lieno, è come se si volesse lasciare tutto lo spazio possibile alla religione della donna. Poi vedremo tutto questo praticamente, ma soltanto per illustrarvi un attimo. Avete presente cosa vuol dire il riso di una donna? Il riso, che senso di felicità, di festosità, di liberazione. Ma quando una donna ride, la testa dove va? Come la vedete? Come la vede lei? Indietro. Indietro. Lo sente la liberazione? Una donna che ride buttando la testa all'indietro, infatti rovesciava la testa. E colui che arrivava ci aveva confusi, eravamo tutti e tre lì senza conoscerci e formavamo già un mondo pieno di speranze. Queste prime derivazioni della poesia, volevo semplicemente dirvi questo: eravamo lì senza conoscerci e formavamo un mondo pieno di speranze. Perché? Ma a me gli occhi per quest'ultima considerazione. Quando ci si conosce, è meno eccitante, ma quando non ci si conosce, l'ho aperto. Ieri sentì una bellissima cosa da meravigliosa, di una persona intelligentissima che parla alle 6 di sera su Radio 3, che parla di tante cose. Io non capivo bene se fosse un economo, è uno psicologo, deve essere un qualcuno che ha a che fare con la psicologia. E parlava del bene, e parlava dell'interesse, e diceva: non sono cose che coincidono. Uno non vuole bene a quello che lo interessa. I ragazzi, tutti, a una certa età vogliono andarsene via dai genitori. Chiudiamo con questa cosa che diceva questo professore. Tu cosa preferisci? Fare le vacanze con i tuoi genitori o con i tuoi amici? Se uno dice con i tuoi genitori è un matto, è un malato, è un malato. Quindi l'interesse è per gli amici. Con i genitori tu, figlio, dici qualche sgarbata parola in casa, poche parole sostanzialmente, i genitori si rammaricano della tua maleducazione. Sto dipingendo un qualcosa che è vicino alla vostra esperienza, dico riservi il meglio di te agli amici che sono fuori di casa e tu invece parli, per ora si parla con le amiche, voi donne di uomo, al 9,8% di casa, 0,2% è riservato sostanzialmente a cose dell'università o di lavoro. Si parla con gli amici, si parla di niente, si parla, gli amici di interesse. Vuoi più bene agli amici che ai genitori, diceva questo signore. Non è questo. Per voler bene non è necessario essere interessati. E pare che ci sia questo esperimento bellissimo che è stato fatto, con cui chiudiamo quest'oggi, che dice così. Mettiamo che uno abbia una zia anziana, una zia a cui sia profondamente affezionato, però è vecchia. E lui sa in cuor suo che dovrebbe andarla a trovare di più e che lei ne avrebbe grande piacere, però è una rottura di scatto. È una rottura di scatto. E dall'altra parte si rende conto che proprio per motivi superegoici va a trovarla, perché non per interesse, che può dirgli una vecchietta? E poi mettiamo una persona invece giovane, della tua età, che ti interessa, ti intriga perché ti affascina. Perché puoi anche averne dei risultati dal punto di vista professionale. Allora, queste due persone si trovano nello stesso specchio d'acqua e stanno annegando. La zia vecchia, l'amica, amico, giovane, che sta annegando. Tu, in teoria, li puoi salvare tutti e due. In teoria. Perché siccome stanno per annegare, il tempo che occuperai nel salvare la prima persona ma certamente a detrimento della possibile salvezza della seconda persona. La zia vecchia non ti interessa nulla, l'altra ti interessa. Chi salverai tu delle due persone? È più probabile, dicono gli esperimenti fatti da scienziati, è assai più probabile che tu sacrifichi la persona a cui vuoi bene ma non ti interessa, cioè scegli la persona a cui vuoi bene e non ti interessa e lasci affogare l'altra che ti interessa. E quando i genitori quindi si lamentano del fatto che i figli non sono interessati a loro, si lamentano di qualcosa di sbagliato e di giusto, perché è vero che i figli non sono interessati, così come è vero che un marito non è più interessato alla moglie dopo un certo tempo, un fidanzato alla fidanzata e viceversa, ma questo non ha a che fare con il bene è un'altra cosa, il bene è qualcosa di svincolato dall'interesse, dalla fascinazione che tu puoi avere. E allora ecco qui, concludendo questa poesia, qui abbiamo tre persone che non si conoscono e questo dà l'idea della, non del bene, ma della chiusura al futuro, dà l'idea della speranza. Fermiamoci qui e continuiamo.